Ad alta voce, Tommaso Ragno legge I 10 giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed, traduzione di Barbara Gambaccini. Alle 2, il decreto sulla terra fu messo ai voti. Ad esso fu opposto un solo rifiuto. I delegati contadini gioirono. Così i bolscevichi si misero in azione, annientando ogni opposizione. Il loro percorso sembrava irrefrenabile, giacché loro solo in tutto il paese mostravano un programma concreto e ben definito. Un soldato, smonto, vestito di stracci, protestò con grande eloquenza contro l'articolo dell'istruzione per i contadini che escludeva i disertori militari dalla spartizione delle terre. Per quanto inizialmente urla e fischi ne accolsero la lagnanza, il suo discorso, semplice e commovente, fece calare un profondo silenzio. Il soldato russo è stato gettato contro la sua volontà nella carneficina delle trincee, di cui voi stessi avete confessato l'assurdità e l'infamia nel decreto sulla pace. Nella rivoluzione ogni milite ha trovato una speranza di pace e libertà, ma il governo di Kerensky, vanificate tali aspirazioni, l'ha rispedito a combattere in Galizia e Tereshenko, innanzi alle sue implorazioni di pace, si limitava a sogghignare. Sotto Kerensky sono stati soppressi i comitati dell'esercito, proibiti i suoi giornali, arrestati i rappresentanti del suo partito, così come nei villaggi venivano ignorati i comitati agrari e imprigionati i loro delegati. A Pietrogrado, la borghesia, complice dei tedeschi, sabotava i rifornimenti di viveri, munizioni e abbigliamento diretti alle truppe. Di fronte a tutto ciò, dovete chiedervi chi è che ha spinto i soldati a disertare. Non è stato forse quello stesso governo che voi stessi avete rovesciato? Molti applausi scaturirono alla fine della sua orazione, ma un altro soldato, imposto il silenzio, ne confutò appassionatamente le parole. «Le nefandezze del governo di Kerensky», affermò, «non possono giustificare un atto così grave come la defezione. I disertori sono canaglie che se ne tornano a casa, abbandonando i compagni agli orrori della guerra. Sono traditori e meritano di essere puniti». Tumulto, grida. «Basta! Silenzio!» Kamenev si affrettò a proporre di rimettere la questione al governo. Alle 2:30 del mattino, allorché Kamenev cominciò la lettura del decreto sulla formazione del governo, calò un silenzio solenne. Nell'attesa del raduno dell'Assemblea Costituente, il Congresso pan-russo decide di formare un governo provvisorio operaio e contadino denominato Consiglio dei Commissari del Popolo. L'amministrazione dei diversi settori di attività governativa sarà affidata a molteplici commissioni, le quali dovranno garantire la concretizzazione del programma del Congresso e cooperare con le organizzazioni degli operai, dei marinai, dei soldati, dei contadini e dei funzionari. Il potere governativo sarà detenuto da un collegio formato dai presidenti di queste commissioni, che costituirà per l'appunto il Consiglio dei Commissari del Popolo. Il solo congresso panrusso e con esso il suo comitato centrale esecutivo potrà controllare l'attività dei commissari e deciderne la revoca. Non appena esplicitate le identità dei commissari, il silenzio fu rotto dagli applausi che scaturirono in modo particolare innanzi ai nomi di Lenin e Trotsky. Thank you. Quando si passò alla votazione, il Consiglio dei commissari del popolo ottenne una maggioranza enorme. L'elezione del nuovo JIC, il nuovo Parlamento della Repubblica Russa, ebbe luogo in 15 minuti. Trotsky ne annunciò la composizione. Dei 100 membri, 70 erano bolscevichi e alcuni posti furono riservati ai contadini e ai gruppi separatisti. «Accoglieremo al governo tutti i partiti e i gruppi che accetteranno il nostro programma», concluse Trotsky. Con queste parole, il secondo congresso panrusso dei Soviet si sciolse, lasciando ai suoi membri il gratificante onere di diffondere in tutta la Russia la notizia di quei grandi avvenimenti. Erano quasi le 7 quando destammo i conducenti dei tramvai che il sindacato dei tranvieri teneva a Smolny per ricondurre a casa i delegati. Stipati nelle vetture, questi si mostravano meno ciarlieri della notte precedente, quasi raggiunto l'ambito potere, realizzassero infine le difficoltà che avevano ora innanzi. Giunti a casa, fummo fermati e perquisiti accuratamente da una pattuglia di cittadini armati. Il proclama della Duma era entrato in funzione. La proprietaria, sentendoci arrivare, ci venne incontro in una vestaglia di seta rosa. «Il comitato di caseggiato ha nuovamente insistito affinché anche voi, come gli altri uomini della casa, facciate il vostro turno di guardia». «Perché questa guardia?» «Per proteggere donne e bambini». «Da chi?» «Da ladri e assassini». «E se si trattasse di un commissario del comitato militare rivoluzionario che viene a perquisire l'edificio per vedere se vi sono delle armi?» «Oh, dicono tutti che sono commissari, ma in fondo qual è la differenza?» Replicai energicamente che il console aveva proibito a tutti i cittadini americani di prendere le armi, soprattutto in soccorso dell'intelligenza russa. Quando uscii l'indomani mattina, trovai affissi vicino alla mia porta due nuovi ordini del Comitato Militare Rivoluzionario in cui si ingiungeva di aprire botteghe e magazzini e di mettere a disposizione del Comitato tutti i locali vuoti. Da ormai 36 ore i bolscevichi erano tagliati fuori dalla provincia e dal resto dell'Europa. Ferrovieri e telegrafisti si rifiutavano di trasmettere i loro telegrammi, gli impiegati postali di spedirne la corrispondenza. Solo la stazione statale di telegrafia senza fili di Zarskoye Selo lanciava ogni mezz'ora comunicati e manifesti ai quattro angoli del mondo. Inoltre i commissari di Smolny, che intendevano sfidare nello spedire velocissimi treni attraverso il paese i loro rivali della Duma municipale, fecero decollare due aeroplani carichi di materiali di propaganda per il fronte. La marea rivoluzionaria si propagava attraverso la Russia con una rapidità superiore a quella di tutte le umane agenzie di comunicazioni. Il Soviet di Helsingfors vi aderì senza remore. I bolscevichi di Kiev tentarono di impadronirsi dell'arsenale e dell'ufficio telegrafico, ma furono cacciati dai delegati al congresso dei cosacchi riunito in città. A Kazan, lo stato maggiore della guarnigione, lì dislocata, e il commissario del governo provvisorio furono arrestati dal comitato militare rivoluzionario. Dalla lontana Siberia giunse notizia che i soviet si erano impadroniti degli organi municipali. Perfino a Mosca, dove un diffuso sciopero degli operai del cuoio da una parte e la minaccia di una serrata generale dall'altra aggravavano ulteriormente la situazione, i soviet avevano votato con una maggioranza schiacciante il pieno sostegno all'azione dei bolscevichi di Pietrogrado e un comitato militare rivoluzionario era entrato in funzione. Ovunque si rispecchiava la medesima situazione. Soldati semplici e operai erano per lo più dalla parte dei soviet, ufficiali, junker e classi medie insieme ai cadetti e ai partiti socialisti moderati sostenevano il vecchio governo. Nelle città i comitati per la salvezza del paese e della rivoluzione sembravano intenzionati a scatenare una guerra civile. La Russia pareva sul punto di dissolversi. Un processo che, iniziato nel 1905, era stato accelerato dalla rivoluzione di marzo, in seguito alla quale si era invano cercato di abbozzare un ordine nuovo, che si era ben presto rivelato quale fradicia impalcatura dell'antico regime. Una sola notte era bastata ai bolscevichi per disfare come fumo dissipato da un semplice soffio questa fragile struttura. La vecchia Russia non esisteva più. La società umana si era riversata liquefacendosi sul fuoco primordiale, dalle cui fiamme era emersa, aspra e impietosa, la lotta di classe e dal cui lento e successivo raffreddamento si era formata la fragile crosta di nuovi pianeti. Pietrogrado 16 ministeri, incitati da quelli del lavoro e degli approvvigionamenti, gli unici creati dal governo di coalizione socialista dell'agosto, scioperavano. Se mai vi furono al mondo uomini isolati, quel pugno di bolscevichi in quel grigio e rigido mattino invernale, durante il quale pareva che tutte le tempeste volessero imperversare sulle loro teste, ne erano un chiaro esempio. Eppure, spalle al muro, il comitato militare rivoluzionario lottava ostinatamente per garantirsi la sopravvivenza. Dell'audacia, ancora dell'audacia e sempre dell'audacia. Alle 5 del mattino le guardie rosse irruppero nella tipografia municipale e, confiscati milioni di copie del manifesto della Duma, ne soppressero il giornale ufficiale. Vistnik Garadskovo Samupravlenia. Bollettino del comune. Tutti i giornali borghesi furono estirpati dalle macchine, compreso il Golos Soldata, organo di stampa del vecchio Zhik. Questo riuscì però a farlo uscire con una tiratura di 100.000 copie sotto il differente nominativo di Soldatski Golos, esprimendo in esso tutta la sua rabbia e il suo odio. Gli uomini che in quei giorni avevano soppresso i giornali non intendevano tenere a lungo il paese nell'ignoranza. «Ben presto la verità sarà diffusa», sostenevano. «Molto presto, signori bolscevichi, il mondo potrà apprezzarvi». Nel discendere la Nevskij, poco dopo mezzogiorno, ci imbattemmo in una folla che, raccolta innanzi alla sede della Duma, ostruiva il passaggio. Uno sparuto manipolo di guardie rosse e marinai, tutti armati di fucile, le baionette in canna, circondati da un centinaio di uomini e donne, per lo più impiegati, studenti e funzionari, ne subivano minacce e ingiurie. Ai piedi della gradinata un incollerito operaio, fascia rossa sul braccio e revolver in pugno, sfidava la folla inferocita affinché alcuni boy scout e ufficiali, intenti a distribuire dai soprastanti scalini i soldatski golos, gli consegnassero i giornali. Nulla di simile, ne sono certo, si era mai visto nel corso della storia. Da una parte un pugno di operai e di soldati armati, i quali, nonostante l'aspetto miserabile, si ergevano a rappresentanti di una vittoriosa insurrezione. Dall'altra, una moltitudine infuriata in cui si potevano riconoscere coloro che solitamente affollano a mezzogiorno i marciapiedi della Fifth Avenue, che strepitava sogghignando e lanciava improperi del tipo «traditori, provocatori». Dalle porte della Duma, custodite da soldati, da ufficiali che portavano sul braccio una fascia bianca su cui era vergato in rosso la scritta «Milizia del Comitato di Salvezza Pubblica», entravano e uscivano in continuazione una mezza dozzina di boy scout. All'interno la tensione era palpabile. Nel discendere la scalinata il capitano Gomeberg disse «I bolscevichi vogliono sciogliere la Duma». In questo stesso istante uno dei loro commissari è nel gabinetto del sindaco. In effetti, sulla sommità della gradinata ci imbattemmo in Ryaznov, che usciva frettolosamente dall'edificio. La sua richiesta affinché la Duma riconoscesse il consiglio dei commissari del popolo era stata categoricamente rifiutata dal sindaco. Negli uffici una folla rumoreggiante di persone che correvano, gridavano, gesticolavano. Si trattava per lo più di giornalisti, intellettuali, diplomatici stranieri, ufficiali francesi e inglesi. Il capo ingegnere della città, nell'indicarli con gesto trionfale, sentenziava «Tutti gli ambasciatori riconoscono unicamente il potere della Duma. A quei banditi e assassini dei bolscevichi non rimangono che poche ore. L'intera Russia ci sostiene». Nella sala Alexander, Il Comitato per la Salvezza teneva un grandioso comizio. Un improvviso colpo di fucile ci fece accorrere alle finestre. Una guardia rossa, esasperata dalle invettive, aveva sparato sulla folla, ferendo al braccio una ragazza. La portarono via su una vettura circondata dalla folla infuriata, le cui grida salivano fino a noi. D'un tratto, dall'angolo della Mikhailovskaya, comparve un veicolo blindato i cui cannoni ruotavano senza sosta. Molti tentarono di fuggire, alcuni si stesero ventre a terra in mezzo alla strada, altri si ammucchiarono nei canali di scolo e altri ancora si nascosero dietro i pali del telegrafo. Giunto ai gradini della Duma, il veicolo si fermò e un uomo, sporta la testa dalla torretta, reclamò l'immediata consegna di tutti i numeri del Soldatski Golos. I Boy Scout, ridendo, si rifugiarono all'interno dell'edificio. Poco dopo, il mezzo, fatta qualche evoluzione, si diresse verso la Nevskij, permettendo a uomini e donne di rialzarsi e scuotere la polvere dai vestiti. All'interno la gente correva con le braccia colme di pacchetti del ricercato giornale, tentando di individuare il luogo più idoneo dove nasconderli. Un giornalista entrò trafelato nella stanza, un foglio stretto in mano, gridando «Ecco un proclama da Krasnov!». Subito fu circondato da un gruppo di persone interessate. «Stampatelo velocemente e distribuitelo nelle caserme!». «Per ordine del comandante supremo, sono stato posto al comando delle truppe concentrate sotto Pietrogrado. Cittadini, soldati, valorosi cosacchi, mi rivolgo a coloro, tra voi, che sono rimasti fedeli al giuramento, a coloro che hanno deciso di non violarlo per alcun motivo. A voi spetta il compito di difendere Pietrogrado dall'anarchia, dalla tirannide, dalla fame, di salvare la Russia dall'indelebile marchio dell'infamia in cui un oscuro manipolo di ignoranti corrotti dall'oro del Kaiser Guglielmo vuole gettarla. Il governo provvisorio, a cui nelle gloriose giornate di marzo avete promesso assoluta fedeltà, è stato estromesso con la violenza. Nonostante ciò, esso, fedele al suo dovere, ancora esiste. Questo grazie all'aiuto delle truppe del fronte e del Consiglio degli eserciti cosacchi che ha riunito sotto il suo comando tutti i cosacchi e che, forte dello spirito che li anima, nonché sostenuto dalla volontà del popolo russo, ha giurato di servire il paese come fecero i suoi antenati nel 1612. Già allora, durante la terribile epoca delle insurrezioni, i cosacchi del Don liberarono Mosca, minacciata dagli svedesi, dai polacchi e dai lituani e straziata dalle discordie intestine. L'esercito osserva con orrore e disprezzo questi criminali. I loro saccheggi, le violenze, gli assassini, i loro sistemi del tutto affini a quelli perpetrati dai tedeschi, di trattare le vittime abbattute ma non vinte, hanno fatto sì che il popolo prendesse la distanza da loro. Cittadini, soldati, cosacchi di Pietrogrado, inviatemi subito i vostri delegati affinché io sappia distinguere i traditori del paese da coloro rimasti fedeli e non abbia a versare sangue innocente. In quel momento si diffuse la voce che l'edificio fosse circondato dalle guardie rosse. Un ufficiale con la fascia rossa al braccio entrò nel gabinetto del sindaco per restarvi solo pochi minuti. Poco dopo la sua partenza, il vecchio Schreider, il cui volto sconvolto impallidiva e arrossiva senza sosta, uscì dalla sua stanza gridando «La Duma si riunisca in seduta straordinaria immediatamente!»